sempre qualche cosettina là, che magari rimane in sospeso, tutto lì. Thank you. nessuno, perché non mi interessa, capito? Non vivo dalla radio, però è una passione. Quelle poche cose che so fare le faccio tranquillamente, ma ci vuole un sacco di tempo, un sacco di sacrificio, sinceramente. È un bel casino, però sono riuscito a metterlo a posto piano piano e quindi già va bene così, dai. Fammelo sapere. e così c'ho un po' di watt, capito? Io non lo uso perché da 3 watt, 3 watt e mezzo, è troppo poco, non arrivi da nessuna parte, anche se sei qua su. Io con la KB23 ho 4 watt, però c'ho un linearettino a parte, della, quindi 747, le danno 85-90 watt, quindi già riesci a arrivare un po' da qualche parte, capito? Ma questi baracchini, se li voglio mettere in funzione, li devo usare tutti con lineare. Sempre sì. Come mi ascolti e quei prezzi? scritto approach, tu ce l'hai, no? O c'è scritto compressore, processore, lo c'è scritto tu. Non ce l'hai il processore tu, non ce l'hai il processore nel, come pulsante in quella radio. Questa sì è più recente di quella lì, capito? E c'ha le mic gain, in più c'ha il processore inserito anche, ecco perché sta spingendo così. Allora guarda, così è senza processore, senza spinta di processore. Thank you. clinica, ci sentiamo e vuole caricarla, così poi ci sentiamo dopo. Sì. Ci sentiamo dopo allora, ragazzi, andiamo a mangiare un boccone e poi ci sentiamo. Sì Gianni, così voglio vedere sul manuale se dà qualche caratteristica in più quella radio. Dai, ne parliamo dopo, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti, buona cena. Ok, altrettanto a voi, ciao ciao. Vabbè. Pacchetto. Oh pacchetto. Fuori le fenne. Si conferma. Le sapete, Sandro? Che guardando a Camillog, vedi, questi sono dei film almeno. Almeno dove ti fanno un po' ridere, che Grande Fratello. Allora, Grande Fratello è soltanto, solo esclusivamente un business non indifferente. Tu consiglia a tutti quelli che telefonano per il voto e così via, cosa tutto in cassa. Quindi è fatto soltanto per uno scopo, capito? Non c'è più niente che non si faccia per niente, caro Claudio. Sono d'accordo con te, amico mio, sono d'accordo con te. Sapevo anche che il mondo dello spettacolo serve per far sì che una persona si conosca, venga conosciuta, per carità, a quei livelli. È vero anche che in una selezione devi anche selezionarla, non mi puoi far entrare come stiamo vedendo a tutt'oggi. Cioè, ricordiamoci che all'Isola dei Famosi abbiamo visto personaggi che nel mondo dello spettacolo praticamente non avevano neanche più voce in capitolo, messi, recuperati per farli guadagnare qualcosa e per far sì che nessuno si dimentichi di questi personaggi. Ma oggi a me ne appunti a me di Sandra Milo, che ha 80 anni, che la bocciano all'Isola dei Famosi a Falosa. Sono dei programmi tutto, sì, tutto per rigenerare le persone che ormai sono andate, trasformate, e ne vogliono, le mettono lì giusto per ricordare quelle persone che pure che senso ha. Ma prendi un povero e mandalo lì e dargli qualche soldo, la girate nelle da seguire, che poi tutto in realtà, tutto spontaneo, non lo so fino a che punto possa essere, capito? Quindi tutte le scenate, tutti gli acciuppamenti, coccolamenti, chiamali come vuoi, secondo me tutto fa parte tutto di un copione, capito? Se no, insomma, diventerebbe solo la solita paranoia, la gente non guarda più, non telefona più, e quindi va quel posto là. Si conferma, Sandro, ma infatti ribadisco che persone come quelle devono andare in pensione. Capisco che possano essere ospiti in qualche trasmissione, in qualcosa che ancora ti appartiene, ma no che tu a 80 anni mi verrà un reality, che respiri per miracolo e devi andare ancora a essere pagata dopo tutto quello che hai fatto vedere, che non hai fatto vedere nulla. A volte non capisco se veramente il mondo dello spettacolo è questo. Quando saremo vecchi noi ci faranno vedere nuovamente quello che stai guardando tu, cioè Don Camillo e Peppone, Totò e Filippo, capito? I vecchi film degli anni 60 noi guarderemo di nuovo, perché il mondo dello spettacolo non vede mai più nulla. Ma in effetti è così. Allora, tu fai l'esempio. Torna indietro di 20-30 anni, per dire, quando tu avevi, non so, 12-13 anni. E di anno in anno, diciamo, la televisione e tutto si è evoluto, ha fatto passi da gigante. Arrivato oggi, passi da gigante. Fra 10 anni cosa succede? Fra 10 anni succede che torneremo al bianco e nero della televisione. noi l'abbiamo già conosciuto. Quindi? E quindi deve passare ancora l'evoluzione. Lo schermo, diciamo, lo schermo piatto, il classico televisore, io mi ricordo il primo televisore che io ho conosciuto era un televisore tutto in legno. Tutto in legno, bianco e nero, mi sembra che era un Philips un grondino, adesso non mi ricordo esattamente, era tutto in legno. E poi piano piano il televisore, diciamo, si è evoluto anche lui. Così quello che ti voglio dire io, oggi, nel 2010, cosa è uscito fuori? Il plasma digitale. Fra 10 anni cosa uscirà? Perché ormai non c'è più evoluzione. Ti devi evolvere, no? Capito? Ti devi uscire la novità. Quindi... infatti... ma alla fin fine il discorso è quello, non è tu. Beh, ho sentito. Sì, ma noi stiamo parlando, va bene la rivoluzione, tutte le cose nuove che stanno uscendo. Però i programmi, soprattutto, io parlo di programmi, sì, si stanno ripetendo le cose di 30 anni, 40 anni fa, ecco, più o meno siamo lì. Ecco. Esatto, carissimo Paulchetto, proprio questo. Per noi siamo arrivati all'evoluzione. Ormai si può cambiare il telefonino. E beh, che telefonino ti cambi oggi? Il più evoluto telefonino che c'è oggi, lo sai? Esiste anche l'orologio telefonino. E beh, dopo l'orologio telefonino quando te lo buono fuori, la scarpa col telefonino, il maglione con il telefonino, o il giubbotto col telefonino. Sì. E purtroppo è così, a me mi è capitato una scena quando non tanto molto tardi, una settimana fa. Stavo scendendo giù alla doccia da mio compare, da questa studente tranquilla, e le scarpe normali, camminava normale, tutto a tratto, e ovviamente le punte delle scarpe, si mette una punta sull'altra e inizia a pattinare con queste scarpe. Ma che cavolo le scarpe c'è? E siamo le scarpe con i pattini, roba dell'altro mondo. Esatto, l'evoluzione, quella che si chiama evoluzione. Oggi ci sono dei sistemi sofisticati e particolari che non abbiamo idea. Allora noi siamo vigilati e controllati 24 su 24. Salva che cosa? Satellite. Allora, satellite al cuore. E poi? E microspie, un po' di tutto, non so adesso di preciso da cosa siamo spiati, ma più o meno dall'alto verso il basso. In generale, noi siamo controllati in generale. Allora, io da casa controllo il mondo, capito? Controllo il mondo. Oggi, 60 anni fa magari non esisteva. Esatto. Beh, è normale che sia così, adesso. Allora, certo, perché è normale l'evoluzione, l'informazione, cosa. Allora, qua vicino qui, c'è una casa vecchissima, ma vecchissima, muri a pietra e così via. Nella facciata della casa, forse Claudio, non so se ti è mai capitato di vedere, se ti è le cose, c'è un chiodo, c'è un ferro, sarà lungo 20-30 cm. Intorno al chiodo, a distanza del chiodo, a distanza di 30-40 cm c'è questo cerchio. C'è un cerchio e il cerchio è numerato. Sai che cosa mi sto riferendo, Claudio? Sì, perfettamente. Ma oggi la tecnologia avanzata non permette più di fare quelle cose. Ecco. Questo chiodo è nato per dire, non so, 100 anni fa, 150 anni fa. Infatti, cosa succedeva? Come si sposta da solo, che gira da solo, segnava una racchera. E tutti facevano riferimento a quello. Ma da lì è proprio nato, era un angelo. E quindi è quello ormai tramontato. Esatto. Ma se tu ti ricordi, in Campania avevano tutto quel sistema. Poi, con la grande tecnologia, che poi è stata una grandissima stronzata, hanno fatto sparire quella tecnologia e non hanno fatto altro che mettere l'orologio normale, come hanno messo al Porto Torres nel Palazzo del Comune. Se tu ti ricordi, il primo orologio nel Palazzo del Comune, quando io, perlomeno, e anche tu sicuramente, abbiamo conosciuto la piazzetta rossa del comune, dove c'era la vasca, che io abitavo lì a 50 metri. Il comune era di quelli antichi che poi hanno restaurato, e l'orologio non era mica quello, era di quelli di vecchia generazione che stai dicendo tu, con una sola lancetta e basta. Esatto. Veramente. Allora io ho visto, cosa che ho visto delle foto. Non so se è presente, Villa delle Vigne e il Bardino. Ah, delle foto addirittura del vecchio comune. Ecco, lì l'ho visto. Lì ho visto. Adesso mi sono ricordato il comune, diciamo l'orologio e così via. Purtroppo l'evoluzione, andare avanti, scoprire, capito? È giusto che ci sia, l'informazione è giusta che ci sia, però come dice, troppo. Vabbè, penso anche Antonio non abbia conosciuto cose di questo genere, no? Sì, infatti. Le ho conosciute, purtroppo hanno tutto trasformato in tecnologia avanzata e secondo me hanno fatto una grandissima, senza togliere nulla, una grandissima caccata, perché quello che c'era prima andava molto meglio di quelli di adesso. Come configurazione sia come tutto. Noi adesso prendiamo le previsioni del tempo, ecco. Giri canale 5 e ti dice una cosa, vai a canale 4 e ti dice un'altra, vai a R3 e ti dice un'altra cosa, insomma oggi non sai da che modo sbattere, capito? Perché così, ognuno deve dire la sua, o per fare il giornale, o per una cosa, o per l'altra, non è che non è, è così. Ma perché tu pensi che anche il sistema meteorologico possa avere un circuito chiuso, nel senso che ognuno dice veramente la sua? Sono tutti d'accordo, perché il meteo è a livello nazionale, quindi con le tecnologie che ci sono oggi tutti guardano le stesse cose e tutti propongono la stessa cosa per poter far sì che uno sia più attendibile dell'altro. Allora uno dice una cosa e uno dice l'altra. Non bisogna avere chi l'ha detta, perché altrimenti sarebbe troppo facile dire tutti la stessa cosa, no? Allora uno guarderebbe solo per dire il meteo nazionale, oppure guarderebbe solo quello regionale o provinciale, e direbbe ma è tutto uguale, cosa lo guardo a fare quello nazionale? Invece non è così. Regione per regione ognuno dice la sua, perché ci sono tutti magari per fare quello. Mica è un business così che non c'è guadagno di denaro. C'è, anche lì c'è la sua parte. Così è sempre. Purtroppo succede che quando giorno dopo giorno ti devi scrivere, devi farti il programma per comunicare per l'indomani. E quindi se non hai niente a fare le mani, qualcosa te lo devi togliere fuori, perché chi fa quel lavoro, diciamo, è sempre all'avanguardia. La minima notizia, il minimo coso la deve pubblicare. E se non hai niente, che cosa pubblichi? Devi pubblicare. Adesso quel caso lì di quella ragazza lì, adesso non mi ricordo di dove, ne stanno facendo mari e monti, guarda, ne stanno facendo. Perché l'ultima notizia del momento, quindi la devi popolare. È una cosa così schifosa che poteva succedere alla... Vabbè, dico schifosa nel senso generale, perché è schifosa proprio, ma è diventata ancora più schifosa e pesante quello che poi la cronaca e la TV ha inserito come il fatto del giorno. Non è una cosa che uno può inserire così come fatto del giorno solo per fare cronaca o solo perché tu fai una trasmissione come quella, che non so neanche come definirla, di Barbara D'Urso, che ogni sera alla TV, o quella su Verissimo, deve sempre inserire questo argomento. Già è una cosa grave per sé, no? Perché è una cronaca veramente a livello nazionale che non viene bene neanche a parlarne, visto e considerato che è stata coinvolta una famiglia di parenti per l'uccisione di questa ragazza, quindi già una cosa vergognosa. In più, questi giornalisti continuano ad infierire in questa situazione, che è già vergognosa, ribadisco, per se stessa, e la televisione include le trasmissioni serali e continuano a parlare sempre della stessa cosa, ma non può essere. Allora io dico, se questo è fare televisione, vuol dire che la televisione stessa non ha più cronaca locale e quindi inserisce cose tanto per ammazzare il tempo. Esatto. Lo so, però purtroppo, ecco, poi logicamente ci sentiamo dire privacy. In questo caso io la privacy non ce la vedo, perché logicamente chi fa quel lavoro deve informare, deve più possibile, però questi poveri cristi sono martoriati giorno dopo giorno. Ma tu, Sandro, pensa solo alla situazione familiare di questa gente, no? Dove già hanno subito un trauma a livello familiare, quindi non indifferente. In più, tutti quelli che stanno lì, giornalisti fuori, addirittura la domenica successiva o la domenica dopo successiva al fatto, si parla che è stato coinvolto un pulma così chiamato dell'orrore per andare a vedere questa frazione, che poi è una frazioncina, un paesino piccolino, per vedere la casa dell'orrore, cioè cose che non ve ne ve a di. Esatto. Una persona, diciamo, che ha subito un trauma, che tu ancora di più li stai addosso, che la pensi, la stai per così, cioè la stai seguendo giorno dopo giorno, assillandola. Allora, questa gente avrà un incubo non indifferente per quanto campa. Poi mi vengono a dire privacy. Secondo me lì non esiste più privacy, non ce n'è. le prendi tu? Sì, ma le prendi proprio così. Sta diventando una porcheria totale e niente, poi voglio dire, se veramente ci sono delle cose, allora prendiamo anche questi del mondo dello spettacolo. Noi un lavoro che fanno una tragedia, molto tizio, caio, ma ormai invece quando muore una persona normalissima, non tipo noi, poveri lavoratori, Non fanno tutta questa grande pubblicità che fanno a queste persone, o perché sono di spettacolo, per una cosa, non ne fanno nulla. Bueno, è tutto, secondo me, è tutto a base di soldi, tutta a base di soldi, sono venuti alla mattina. Sentito dire, si presume che, non si presume più un par di palle, si presume che non esiste, c'è il giudice che condanna, non il giornalismo italiano che condanna, secondo me. Signori, io vi comunico che sono già a mio agio. sono già a mio agio, sono già a calduccio, sotto la lenzuola. Ma ti è mancata la luce lì, ma ancora San Giovanni, sì. Ma te sei spontaneamente accorto che sono sempre qua. Sono sempre qua. No, qua mi organizzo diversamente, io fra. Qua c'è una stanza tutto per i cavoli miei, mi ho equipaggiato tutto portato a mano, mi giro, schiaccio e vai. Che sei mamma capitano? No, ma va bene, cosa eravamo da cosa me accorgo, sa? 6:25. Avevi più forte di Sassari. E niente, dopo l'ottobre 6:20, oramai sei a livello locale, quindi di cosa mi accorgo? Non mi accorgo di niente. Va bene, avanti Antonio, riprenditela. Aia, KK. E così purtroppo, è tutto casino, questa vita più stiamo andando più casino c'è, non c'è nulla da fare. Ehi, vai este, avanti Sartre, poi per girare. Vabbè. Comunque, comunque, lasciamoli fare, bisogna lasciarli fare, purtroppo noi siamo delle piccole pedine. Siamo delle piccole pedine immuni quando ci arrivano, ce le teniamo, ce le prendiamo e purtroppo cosa possiamo fare noi? Niente. Hai visto adesso quel video che hanno fatto fuori gli americani, che prima erano imboscati? L'ho visto sì, adesso in Francia cosa fanno per far sì che le tasse vengano abbassate e venga rispettato tutto quello che sono contributi in generale, non come qua in Sardegna, capito? Non come qua in Sardegna, che se trovano polli veramente che cadono nel tranello dell'Equitalia, sai quanta gente restituisce soldi che ha già restituito, come hanno fatto a me da poco, mi è arrivata 9 cartelle a me, io non ho, guarda, proprio su quelle cose sono sempre stato attento, tra l'altro 9 cartelle di mi pare 6 o 7 di bulli non pagati, cosa veramente assurda. E poi IRPEF non pagata di quando avevo la mia azienda. No. Fortunatamente Claudio ha un modo di vivere che è molto ordinato, ma molto ordinato. Io ho una valigetta conservata dove ci sono i pagamenti del 1990. Capito? Cose veramente pagate di contributi di 740, insomma cose mie personali. Sono andato a spulciare lì perché ero sicuro che avevo ragione. Mi sono trovato proprio la cartella bella pizzata con tutti i pagamenti, IRPEF, IDOR, mi ho tirato fuori qualsiasi macchina ho venduto, ho fatto sempre la fotocopia del foglio complementare, no? Già timbrato dal notaio, quindi con passaggio già registrato, e il bollo della macchina attaccato. Così ho fatto, mi ha messo tutto la tavola e sono andato in Italia. Ha giovato un'ora di via, per non mollare ogni tanto perché se fai passaggi molto lunghi, mi avvisa, questo microfono sostituzione si è mai accorto, se fai passaggi molto lunghi suona e lampeggia la spia rossa. E quindi sono andato lì, ho fatto un'ora di fila, poi mi ha detto salieri, che cosa? Eh sì, Moro, eccetera, se vuoi lo metto in Italia, beh, non me lo ricordo, in Italia. Comunque lo controllo da quale forse fa prima. Si è sbiancata e dice, ah, lei c'ha tutto, sì, quello che c'è scritto nel vostro computer a me risulta pagato, queste sono le mie ricevute. Si ha fatto tutte le fotocopie, mi è arrivata la lettera avanti ieri, con le scuse che mi hanno azzerato la, ma tutte le immagini, che se trovi un imbecille, vai a regalarle 3.500 euro a questa gente. Sì. Su quel lato lì, guarda, io sono preciso lo stesso, conservo tutto, perché mi è capitata a me una volta, mi avevano richiesto non so che cosa, e meno male che avevo tutto fotocopiato a casa, gli ho portato la fotocopia, dice, lei è regola. E se avesse trovato una persona che non avesse avuto la fotocopia, un bigliettino lì messo da parte, voi a me avevate lasciato indietro, così. Dice, ci scusi, ma noi il computer boom bar ci diceva che insomma, cioè per dirti che sono dei miserabili. Ma tu lo sai cosa mi ha risposto a me questa signora quando io ho fatto la stessa domanda che hai fatto tu, eh? Detto, ma mi scusi, non vorrei essere impertinente nei suoi confronti, perché capisco che forse non è colpa sua. Dice sì, ha già capito, ho detto sì, ho capito perfettamente, ma mi faccia capire una cosa, se io non avessi avuto la mia documentazione, avrei dovuto pagare, ah sì, a titolo di legge sì, perché lei non presentando le ricevute pagate per noi risulta moroso. Gli ho detto, scusi un attimo, ma se voi parlate dal 2001 al 2009, ma è possibile che non ci sia un CED, un centro di elaborazione dati, dove man mano che la gente paga, man mano che le pratiche vengono archiviate, voi azzerate il computer, o il computer continua a essere lì solo per guardare le figure, non per essere lavorato automaticamente? Dice, guardi, non lo so rispondere, perché non è il mio lavoro quello. Io sto qua perché devo stare qua? Ah, gli ho detto. Infatti io esco alle 6 del mattino, rientro alle 6 di sera per regalare i soldi all'Equitalia, perché nessuno fa il suo lavoro. Mai scimmini di taglianta dal guru, ha giudito. Sì. Attentato il preto, fermo lì a scaldare il cosiddetto tavolo, siria, cosa cazzo è? Poi mi è capitato una volta lì all'Impisi, un'ora si aspettando dentro questo ufficio, ma non mi dicevo, beh, ah sai che sono entrato dentro, cazzo, mi sono messa a buccia, ma è così, ma non è un commesso, non è un addetto lì a quell'ufficio, cosa c'è qua, io mi sono rotto le palle di stare qua aspettando a voi, ma non mi altro la mattina che ho le 6, cazzo, per fare la fila e aspettare alle comodità vostre. Ma ci scusi, la mia collega ha avuto contrattempo. Se c'è una collega che ha avuto contrattempo, non c'è il collega che può sostituire. Punto e basta. Comunque adesso parte il vostro lavoro, non pare che non state lì a scaldare la sigla come parte la maggior parte delle volte. E lascia vedere. Vai, Tore, riprendi. E anche noi facciamo le foglie là, via, e se lì va, ragazza, ma ho voluto fare tutta la lunga carta, ma uno dei lì che ci davamo la stessa, non avevamo preso più le palle. Ora, prendo la prete giù, ma che poi se vuoi fare che non c'è la roba, e lì lascia le fotocopie, tutte le cose, sì, ma la pregatura è quella, se tu non hai un qualche documento conservato che puoi contrastare che tu hai pagato quella determinata fattura, lì ti piappetano di brutto, ti rifanno pagare la stessa roba, ma stiamo scherzando. Io confermo quello che ha detto Claudio, ma non c'è un datele devi cancellare quello, appare altro cancello, archivio, niente, lo lasciano lì per bellezza e basta, e poi loro cosa fanno? Riguardano il computer, capito? Ti ristampano il bollo, cosa fanno, la sottesia, e te lo mandano il bollo da pagare. Dove sta scritto? Dove sta scritto? Purtroppo è così, tutto, bisogna conservare tutto, tutto, bollette, gli sguardini. Dice, ma per 5 anni, no, per vita, ma nei 5 anni possono succedere tante cose, capito? Devo sempre conservare le cose. E quindi, ok. Io l'anno scorso sono cancellato la figlia, anche i versamenti, tutti pagando, a ultimo non pago, ci sono un po' di danno, che mai c'era un versamento che non ha pagato. Ma effettivamente non ha pagato con consulenza, però ci vogliamo lavorare. Sono andato io e gli ho detto, guarda, io non avevo niente a pagare qui tanto, perché se no guai. Infatti, si conferma, si conferma. E così, è così. Avanti, Sandro, Claudio, chi ce l'hai? Ehi, vabbè, quelle sono cosettine di normale amministrazione, ormai non c'è da stupirsi più di niente, ormai chi più ne ha più ne mette, poverino a chi non riesce a difendersi o a chi si deve sottomettere, e Giulia, per carità, e vabbè, va. Ci vediamo avanti, alla meglio, risiaghito, e poi chi più ne ha più ne metta, oh Giulia. Ma sta ancora tornando, Claudio? Diciamo che un po' calmato, ma sta sempre più avvicinando, perlomeno qua nella zona alta, sì. Ma ti sto aspettando che arrivi mia figlia dal lavoro. Sarà già uscita, sarà per arrivare. No, Sandro, sai qual è il problema? Mi ha dato la nerottite, no? Troppo allucinante. Sai qual è il problema, Sandro? Che, come giustamente hai detto tu, i cuori erano scibuti fin lì. Perché guarda che è una cosa assurda, a un mio collega, che è una persona così pignola, così perfetta, che io penso che non ce ne siano da nessuna parte. Gli hanno fatto il fermo amministrativo perché su della macchina, che tra l'altro è nel mio garage, perché non la può toccare, ed è in causa, un Mercedes, un SLK 200, è nel mio garage in via Pascoli, gli hanno fatto un fermo amministrativo perché praticamente lui ha preso questa macchina incontinente, usata. Al momento in cui lui l'ha portata giù, gli hanno dato il foglio di via in attesa del passaggio di proprietà. Ok, quando lui è arrivato qua, nessun problema, è arrivato il libretto, a bella un casino che ha arrivato, non lui, è arrivato il libretto, quindi automaticamente arrivando il libretto e il CDP, e lui era proprietario a tutti gli effetti, prima che scadesse il foglio di via, 60 giorni prima. Però cosa è successo? Che non hanno registrato, si hanno presi i soldi, come avete detto poco fa, l'agenzia, non ha registrato al BRA di Reggio Emilia con nulla osta al BRA di Sassari la registrazione. La senti? Devo mollare. Mi avvisa sto microfono che sto facendo un passaggio troppo lungo. Non hanno fatto la registrazione praticamente e sono arrivati un mare di bolli da pagare, non certo quelli che aveva lui, perché lui l'ha fatto nuovo, e gli hanno fatto il fermo amministrativo ed è in causa perché nessuno riesce a capire dove è stato registrato l'atto di vendita di questa macchina. Hai sentito? Sì. sì. No, io aspettavo che rispondesse a Sandro. Sandro. No. Scusate, ma ero qui che mi è sparito Camillo, cacchio. Camillo Peppone. Sì. Allora, Ocla, non è che non vogliono, hai capito? Non è che non si può. Si può. Però evidentemente lì c'è qualche, come ti posso dire, qualche porta chiusa, qualche ostacolo che bisogna superare, però come vuoi tu, però non esiste, non si può. Sì, ma il tumoraccio secondo te che cosa deve fare? Cioè, deve, ha preso una macchina a noleggio per venire a lavorare, sta fatturando, sta facendosi fare la fattura ogni mese e poi presenta tutto il conto, perché gli hanno fermato la macchina, gli hanno fatto il fermo amministrativo, lui colpa non ne ha. Lui dice, ma guardate che sono proprietario di questa macchina, ho un libretto, un CDP, che non è più è un certificato di proprietà, che a me mi è stato rilasciato dal TRA di Reggio Emilia, quindi vedete voi che cosa dovete fare. Io non sono moroso con nessuno, questo è il mio bollo che io ho pagato al momento in cui ho ritirato la macchina, perché l'ho ritirata all'inizio dell'anno, di quest'anno, e quindi ho fatto il bollo da gennaio a dicembre, quindi la mia macchina è a posto, io sono in regola. Di cosa mi state accusando? Perché mi avete fatto il fermo amministrativo? Nessuno sa rispondere. Risulta solo che questa macchina è intestata al vecchio proprietario, non è stata fatta nessuna registrazione e che questo vecchio proprietario non ha mai pagato bolli. Ma dove stiamo andando a finire? Cioè, che cazzo mi te ne rendi conto? Allora, il discorso è questo. Lui c'ha la macchina bloccata, ferma, non la può usare. Un fermo cautelativo. Allora, se non ricordo male, il fermo cautelativo ha una durata, al di fuori, diciamo, del sequestro, diciamo, sequestro cautelativo. Il sequestro cautelativo viene adottato quando, per dire, su misura particolare, ma siccome questo non è una misura particolare, questo si tratta soltanto di scoprire, diciamo, la mancata pagamento dei bolli, da porto, che logicamente hanno, sono risoluti al vecchio proprietario. Al momento dell'acquisto della macchina è risalito tutto, che mancavano dei bolli pagati a nome di Tizio Caio Sempronio. In quel caso lì cosa succede? Succede che ne subisce temporaneamente, logicamente, ma non per lunga durata, temporaneamente, diciamo, chi acquisisce di nuovo il veicolo. Lui logicamente, se trovate in questo equipo, dovrà andare da un legale, perché dovrà andare da un legale, dovrà prendersi una macchina a noleggio, se non vuole andare a piedi, deve conservarsi tutte le sue fatture, presentare poi verrà risarcito logicamente. Chi risarcisce? Risarcisce chi? La motorizzazione, chi di dovere. Quindi sono soldi che logicamente stanno buttando via. E quindi cosa succede? Succede che c'è una burocrazia, un qualcosa che non funziona, capito? Però chi ne subisce è colui che viene penalizzato facendo l'acquisto, perché c'è la macchina ferma e non la può usare, quindi peggio ancora. Quindi senz'altro lì c'è un qualcosa che è di meccanismo che non funziona, che non ci vuole far funzionare, perché se io so che Tizio Caio non ha pagato bolli dal 1980 al 2000, ok, perfetto. Tizio Caio dal 2001 ha acquistato la macchina, perfetto, ok. quindi lo sai, non è che non lo sai. Quindi questa forma fotografica non lo so fino a che livello possa essere valido. Sandro, a lui gli hanno detto il legale, il suo legale, che è già in contatto con, evidentemente in continente, con qualche funzionario della motorizzazione. Gli ha detto che se questa pratica supera i limiti del fermo amministrativo, la macchina va praticamente in sequestro cautelativo. Dopodiché, se la pratica non viene regolata, perché hanno condannato a lui a pagare e lui non vuole sborsare niente, ma non ti sto parlando di 500 euro, ti sto parlando di 6.500 euro di bolli non pagati, più tutto quello che è a ruolo delle spese che ci sono, quindi degli interessi che ci sono. Mi pare che tra due cartelle arrivi al netto a pagare sui 9.500 euro. Lui dice: io non sborso neanche una lira, ho pagato la macchina 10.000 euro usata in questo autosalone e devo pagare altre 9.000 euro di spese perché mi hanno condannato a pagare i bolli arretrati, ma non esiste, quindi è per via legale. Però il legale suo gli ha detto che se questa pratica non andrà chiusa dopo il fermo amministrativo come adesso, che mi pare che scadita al prossimo mese, ci sarà il sequestro cautelativo, come hai detto tu. Dopo il sequestro cautelativo la macchina va sequestrata e messa all'asta. Cioè, ma tu ti rendi conto di questo? Sta rischiando di perdere la macchina perché dove lui l'ha comprata non hanno mai pagato bolli. Cioè, cazzo, gli avevo bigliato una bisciura da 30 a un garage, ero andato e l'avevo imparato a liscio. L'avrei sparato. Allora, senz'altro succede questo, che il vecchio proprietario che dovrà pagare, 9.000, 10.000, 20.000 euro, logicamente l'avranno citato, citandolo gli avranno detto: guarda che tu questo e quest'altro. Vogliamo credere che il vecchio proprietario sia nulla tenente, neanche la mutanda che ha addosso, niente. Quindi non li puoi sequestrare, niente, non li puoi pignorare, niente, non li puoi mandare neanche l'ufficiale giudiziario a casa per portarli via il valore che lui deve pagare, perché è nulla tenente. In questo caso cosa succede? Non essendo nulla tenente non li puoi fare niente. Addirittura mi sembra che ci sia una denuncia, però adesso non mi voglio ricordare male, ci sarà una denuncia per mancato versamento, diciamo, di imposte e così via, però non essendo nulla tenente mi sembra che non ci sia neanche la galera. Quindi chi se la prende in una QSO, chiamiamolo QSO, è colui che è mal capitato, diciamo, in questo invito qua, tutto lì. Quindi questa persona, questo mio collega, io gli ho detto: datti da fare, perché purtroppo la burocrazia in Italia funziona a questi livelli. Quindi in questo caso tu sei caduto nella rete e giustamente dovrai uscirne. E spero ne esca nei migliori modi, perché è disperato, sta anche, è bellissima, ce l'ho in garage, non te lo faccio vedere. È bellissima, lui era appassionatissimo, è una serie capo a cabrio, ma è disperato perché ha paura di perderla in questa situazione più orrenda e più schifosa che possa essere successa. Vai Anto. Sì, ma io mi domando una cosa, va bene, al di là di tutto quello che potrebbe succedere con la rete all'asta, no? Un parola. Ecco, messa all'asta, l'asta ovviamente qualcuno, qualche un'altra persona dovrà prenderla questa macchina. No? E torniamo al discorso allora di questa persona che già ha acquistato questa macchina. Se non riescono a toglierne il fattore dei bolli e cose, fatevi capire, riparano, rimatricoleranno una macchina, non so, per poter circolare. Cosa faranno? Cioè, spiegatemelo voi. Lo spiego io perché me l'ha già spiegato lui quello che ha detto l'avvocato. Al momento in cui la macchina va all'asta e passa ad un'asta giudiziaria, cosa succede? Che è il tuo casino? Non mi ha chiesto, ci vanno i capelli. Succede, tanto, te lo dico io, succede che fanno partire la base d'asta cercando di recuperare il debito per poter sanare i bolli. O sbaglio, sanno? Esatto, esatto. In effetti l'asta serve a recuperare, logicamente, come sta dicendo tu, Claudio, a recuperare, diciamo, i soldi per risanare, diciamo, questi bolli non pagati. La macchina, logicamente, poi qualcuno la dovrà acquistare tramite asta, capito? Acquistando tramite asta, la macchina entra di nuovo in circolazione. La persona maggiore dove sta? Sanno il tuo collega che, poverino, è capitato in questo inghippo. Capitando in questo inghippo succede che lui ci rimane con tanto di naso, con spese dovute, entrandoci la mano in tasca, e chi si fa i salti di gioia è il vecchio proprietario, perché dice, ecco, non ho voluto la macchina, non ho pagato bolli, e chi si è visto. Hai capito tu come funziona? Ma non ha spiegato qualcosa gli ha detto l'avvocato. Fanno la perdita di possesso, cioè sono di perdita di possesso, la perdita di possesso dei documenti, rimatricolano la macchina con una base d'asta, includendo le spese di bolli anche del 50%, non intanto ci guadagnano dalla vendita della macchina, sanano il debito e li avanzano i quattrini. Ecco che cos'è la burocrazia italiana, ecco cos'è la truffa, perché questa è una vera truffa. Uno che fa un sacrificio per andare a comprarsi una macchina e se la deve portare via così, a questi livelli, senza potersi neanche difendere, perché l'hanno condannato in contumacia, addirittura, perché uno si è mai presentato, l'hanno condannato in contumacia a pagare questi bolli perché lui ha acquistato la macchina e acquistando la macchina si è caricato anche i debiti della macchina. Chiudiamo il discorso perché guarda. Ma guarda, proprio ladri col vero, ladri autorizzati. E poi la rispetto, e ci vediamo qualcosa di strano, c'è la cuore. assumi tu concessionario le responsabilità, nel senso che se la vendi entro l'anno il bollo è già pagato, se tu non la vendi entro l'anno e ti rimane 2 anni lì, tu hai 2 anni di bolli da pagare, li paghi tu come concessionaria, non il vecchio proprietario. Questo è un grandissimo truffaldino, perché poi lui stesso ha riscontrato, sempre vie legali, che questo ha truffato mezzo Reggio Emilia, sempre facendo questi giochi di Caruso, prendendo la macchina in carico, senza fare la procura di presa in carico, e truffando poi la gente. Capito? Perché alcune macchine le ha anche rottamate, non solo, avendo l'incarico, non essendo sue, le ha anche rottamate. E ci vuole una cosa che regolare, se no, se il concessionario è giusto, non vedo perché quelle cose, dai. E qualche cosa di fa, c'è il soffio, sì. Io spero, poverino, che ne tolga piedi, perché veramente mi va del bene. Lui è disposto a rivendere la macchina e recuperare i quattrini che ha speso, capito? Ma non la può toccare la macchina, non la può assolutamente toccare. La macchina è bellissima, e nel mio garage l'ho fatta mettere lì. Ho preso addirittura io in carico la situazione, attenzione, perché se dovesse succedere qualcosa, passo guai anche io, mi sono informato dagli amici che ho in questura, mi hanno detto no, confermo amministrativo tutti della coppia del fermo amministrativo, e praticamente sei custode, visto che hai il garage, non ne ha, sei custode della macchina. Nel caso qualcuno venga la deve portare via, tu devi prima interpellare noi e noi diamo l'autorizzazione alla rivoluzione della macchina, altrimenti la macchina non può uscire. Ma glielo faccio perché, guarda, è una cosa troppo triste, cazzo, troppo. Io quando vado in garage e vedo questa macchina mi viene il malumore, cazzo, mi viene il malumore. È una cosa allucinante. Anto, io capisco che ti viene l'incazzatura, però credimi, guarda che questo è andato da uno dei migliori avvocati, ha consultato tantissima di quella gente, l'ho accompagnato anche io in direzione generale alla motorizzazione, perché sono andato da Battiano Sanna, sono andato da un sacco di gente che conosco, e tutti hanno detto la stessa cosa, che loro non ci possono fare niente perché la motorizzazione di Reggio Emilia non manda il numero nostro perché la macchina non è interessata a lui. Cazzo, tutti devono essere casini. Però questa persona della concessionaria è introvabile, allora, questa persona. Introvabile? Te l'ha detto già Sandro, siamo fallito, cosa rimasti? Lui ha dichiarato che la macchina l'ha venduta tramite concessionaria e che i documenti sono in regola. Se poi il proprietario vero, no, quello non si trova il vero proprietario, non si sa che fine ha fatto, magari sarà pure morto, non lo so, però il concessionario ha dichiarato che lui al momento in cui ha venduto la macchina ha emesso regolarmente fattura di vendita, perché questo è un rappresentante, capito? È un mio collega, nel senso che lavora anche con lui, però il suo lavoro è rappresentante, e quindi ha dichiarato che la macchina è stata messa sotto fattura con documenti in regola. Se poi non è stata registrata al BRA di Reggio Emilia, a lui non ne frega assolutamente niente. Lui ha messo regolare passaggio di proprietà con atto notarile, allora dimmi tu cosa, non ci capisco più niente. Forse Sandro riesce a capirci qualcosa, non lo so. Adesso Sandro dimettendo, quanto è Mauro, mi ha dato la telegaggia di Gabriele. Oh, sta guardando a Camillo. No, scusate, ma sono andato a fumare una sigaretta. Siccome in camera qua non fumo, no? Perché se no se fumo in camera da voi mi trovo ancora di più, cazzo, mi metto la gabba, non credo. E poi addio, poi ah. No, sono andato lì a prendere un po' di freschetto, ho tirato la testa fuori. No, che brutto vizio, cazzo. che brutto vizio. Vabbè, va, comunque. Signori, io vi lascio, che domani devo fare il boscaiolo. Domani a tagliare legna. Hai capito qua? Domani dobbiamo tagliare un po' di legna, il tempo sta ritaccando e quindi bisogna organizzarsi e ne devo approfittare, se no dopo lì c'è un po' un casino. Signore e signori, buon passo e ce la risentiamo tutte le prossime, dai. Ecco. Gianni Capri 2 in compagnia mia di Falchetto, se si trattiene ancora, ma non credo. E Vittore, avanti Gianni. Buonasera a tutti, comunque e che la fa proprio e devo dire alcune corrette. Diciamo tanto comunque Rettini, sono stato tale, ha ragione Claudio, ma pensando un papo che era fuori. Poi mi confido con Claudio in certe cose, comunque sono anche Antonio e l'amico Tore. No, Claudio, io volevo chiedere se sei tu di questa roba delle successioni. È possibile che facciano un atto notorio senza essere presente io? Un attimo. Ciao Capri 2, dopo tanto ti ascolto un po' meglio. Qualche Santiago in più e tutto quanto. Ok, Sandro, perfetto, anche se ascoltano bene. Ti ascolto con un Santiago di 5, è una radio molto bella, si ascolto la di 4, è però una cosa della mia stazione che è molto distante, da lì comunque arrivi direttamente. Ok, continuate pure. Stavo chiedendo, Claudio, che sei forse più esperto, Vittore, che sei passato prima, per la successione, è possibile che venga circolato un atto notorio senza essere presente io? No, noi abbiamo fatto da poco l'atto di successione, perché è morta mia suocera e mio suocero, questa era la casa loro, e praticamente siccome il mio cognato, fratello di mia moglie, ha rinunciato all'eredità e automaticamente in atto di successione risulta mia moglie e non c'è andata neanche lei, basta la delega al notaio e tu sei anche più avvantaggiato perché tuo padre è vivo e quindi in sua presenza lui può fare direttamente l'atto di successione. No, perché no, non è che siamo due esperti, c'è il mio cognato che funziona io della banca di Stato. E niente, capisco come ero anche preoccupato di questa roba, che io volevo vedere perché da tre erano da giovane. Se vedo papo che serve un mio stato di famiglia e scopo con lo stato di famiglia, tu quindi sei passato prima. Stato di famiglia per vedere se tu effettivamente sei erede e se hai atto, così si dice, atto in successione, perché se tu non sei incluso nello stato di famiglia non puoi avere l'atto in successione. Sì, però lo stato di famiglia della mia famiglia, di mia moglie, voluto, hai capito, no? A quello lì che mi dicono. Atto, beh, tu porti cognome tuo padre, quindi loro devono vedere se tu nell'anagrafe appartieni alla famiglia dove viene emesso l'atto di successione, perché si chiama atto di successione, perché praticamente è un atto che viene emesso dopo che tuo padre inizia a dare l'eredità ai figli e quindi si chiama proprio atto di successione. Quello stato in questo paese vicino con altri due testimoni che a noi ci conoscono, detto che non c'era bisogno della nostra presenza, detto che non c'era neanche lui, l'ha fatto per conoscere, perché questi sono i testimoni che conoscono, il sindaco ci conosce, è possibile che sia venuto così? Certo, ci può fare tutto oggi. Quello è un atto di successione in, a un altro nome, praticamente un atto di successione, non mi ricordo adesso esattamente la parola esatta, però praticamente a titolo di conoscenza, quindi capito, senza la presenza di chi deve fare questo atto. Per titolo di... è un nome un po' particolare, comunque si può fare, Gian, si può fare perché ad esempio neanche mia moglie ci è andata, è bastato solo la documentazione che hanno chiesto a te, quindi stato in famiglia, tutta la documentazione, atto della casa esistente, il primo atto che era stato fatto a nome di mia suocera, e a quell'atto il notaio dichiara che gli eredi universali e Tizio, Caio e Sempronio, quindi fanno un atto di successione inerente al primo atto che già esiste all'ufficio del comune. Un attimo. Oh Gianni, hai compilato il modulo che ti hanno dato in comune? Non ho compilato nulla, io non ho compilato, io non sono manco andato, infatti è per quello, siccome vado non è che sia molto esperto, forse l'ha compilato mia sorella e mio cognato, non lo so. Allora, in comune c'è un modulo apposito dove sotto proprio la tua responsabilità alla normativa di legge e così via, che tu devi dichiarare che Tizio, Caio, Sempronio e compagnia bella. In quel caso lì il sindaco o chi è addetto a quelle cose ne prende visione e ci mette tanto di timbro. Ma siccome questi testimoni che c'erano, questi due testimoni che c'erano, noi ci conoscono, il capitolo, quindi forse non è stato bisogno, l'atto notorio è questo, cioè. Esatto, l'atto notorio che si fa in comune. E però io non ho partecipato neanche Papo, ha dato l'incarico mia sorella, sindaco l'ha fatto lui. Ok, te lo dico perché purtroppo io l'ho fatto da poco perché c'era una macchina di mezzo e quindi te lo dico per questo. Infatti no, io non niente, anzi, non volevo accettare nulla dopo il fatto che mi confuso che questa roba c'è un certo periodo di tempo per farla. No, Claudio, se mi mettono qualche cosa che non riesco a pagare, io mi finirò quel tempo, vuol dire. No, non succede niente. Noi l'abbiamo fatto, Sandro, come praticamente atto di successione agli eredi, che mio cognato e mia moglie, solo mio cognato, grazie a Dio, non ha bisogno di niente, quindi l'erede universale è mia moglie. E perciò non c'è neanche andata, è bastato i documenti che ci hanno chiesto, il notaio ha stipulato direttamente l'atto di successione con l'eredità universale, tutto a nome di mia moglie. Ma è una cosa fattibile che evidentemente si può fare d'ufficio, altrimenti ti avrebbero chiamato per firmare delle carte, Gianni, sicuramente. Posso intervenire? Vai. Io vi saluto, vi auguro una buonanotte a te, a Gianni Capridù, a Sandro, a Tore e anche a Claudio. Dai, io passo quel venti che domani si travacca. Noi se ci vogliamo vedere domani per la cabina non ci sono problemi. Buonanotte a tutti, è stato un piacere fare un bel questo. Dai. Buonanotte a tutti. Quanto mi ha chiamato proprio fa mio collega, mi sono indicato dietro alle 7 devo essere a Polotorsi, quindi uscire alle 6:30 per pigliare un caffè non credo che sia proprio necessario. Ci aggiorniamo dopo domani. e ci sentiamo domani sera in radio, ok? Va benissimo, d'accordo. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Avanti, buonanotte, a domani. Avanti, Gianni. Ciao, Marche, buonanotte. Scusa per la mano della polizzazione, perché ero un po' preoccupato, perché come sai che la causa vuole che sia molto esteso di questo, quello volevo vedere chiaro, quello volevo essere stato, ma c'è qualcosa che non fa, ho detto giusto, ho chiesto a Claudio che anche lui si è passato, che riprendi per girare. Ho sentito qualcuno che forse vuole entrare, chi è? Sì. Ho capito. Oh Giuseppe, è come una volta in tutta la strana. Ciao Giuseppe, buonasera. Ok, va bene. E c'è anche Tore da Itri, vediamo un po' se lo senti Gianni, avanti Tore. Tore. Copia Gianni Capri 2, oh Marco Tore, ti copio solo io, forse, non lo so se ti copia Sandro, ma ha già chiuso, credo, Falchetto è già andato a Nanna, e noi non è che ci tratteniamo molto, alle 11 chiudo anch'io, perché altrimenti domani mi devo andare, sì, alle 7 vuoi essere a Porto Torres, se che molto probabilmente devo fare un salto alla Sinara, perché devo fare dei controlli e delle relazioni, con la speranza non ci sia male, che il traghetto parta, non mi tocca dormire lì pure. E Milan ha vinto con Napoli, mio collega è in lutto allora, sempre prevalere, quindi il Milan adesso è praticamente a pari punti con la Lazio, no? La Peppa, due punti più dell'Inter, cioè, vabbè, quest'anno si sapeva che campionato andava a finire così, le squadre sono molto forti e quindi si cerca il bim bum bam. Ok Gianni, io ti devo chiedere permesso di QRT. Mi ha chiamato anche la mia figlioletta che ha bisogno di parlarmi, eccetera, quindi se faccio radio non posso seguire lei, sono già le 11, oggi un po' in ritardo si è entrato per poterci trattenere e farci due chiacchiere inerenti alla radio, ma possiamo riprendere questo discorso anche domani, ne abbiamo di tempo a disposizione, quindi ci possiamo sbizzarrire, magari domani ti arriva il microfono e così facciamo anche qualche prova microfonica Gianni, ok? Io credo che entravo, invece poi è arrivato Napoli e l'abbiamo trattenuto a cena e stavamo un po' discutendo di questa cosa, però io ero sempre perplesso un po' e niente, poi l'ho accompagnato, mi giusto sono entrato perché avevo promesso che entravo, poi tra domani giornata lavorativa, lo so anche io mi alzo presto, quindi annuncio il mio QRT anche io, mi è passato solo che ti è entrato così per salutare, quindi saluto Tore, saluto Giuseppe, saluto a Tecla e tutti gli amici che sono in ascolto, anche io faccio il QRT perché ci stiamo avvicinando alle 11 e poi la mattina è giusto quando sono arrivati, a te ancora ascolto il finalino e poi faccio il QRT. E Gianni, ripeto io, allora ti saluta anche Leoncino, la sassa di Giuseppe, che non ascolti. Io saluto anche Giuseppe, a Tore, se ci fosse ancora qualcuno all'ascolto, la più cordiale buonasera a tutti, eccetera, eccetera. Giuseppe, noi ci aggiorniamo domani, è già tardi, altrimenti domani è un casino. Devo uscire molto presto, oggi non ho neanche riposato dopo pranzo, e quindi voglio andare un po' a riposarmi. Ciao Gianni, non ti preoccupare, domani poi ci aggiorneremo meglio, facciamo anche qualche prova di trasmissione sul tuo microfono, spero che arrivi domani e così ci aggiorniamo meglio e ci facciamo due chiacchiere. Ciao, grazie di nuovo, salutissimi al cuore, un abbraccio e grazie sempre della compagnia e del tuo intervento Gianni, un risentirci a tutti, buonanotte.